som d'un'altra razza, som bombarò. Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? Scippi tu a P38. E invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? Messi a P38. Me ne frego di morire, ma di vivere a premura, pregando a braccio teso per un'altra dittatura. Ma la musica non cambia, non cambia il movimento, i rumori nelle strade, gli accordi in Parlamento, e il gioco che ti assegna un ruolo stabilito, o carne da macello, o carne da partito. Io non voglio far carriera in banca, aderire al sistema. A che serve parlare, votare o manifestare? Bisogna colpire nel cuore. Son d'un'altra razza, son bombarò. Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? Scelgi tu o mi prendo poco. Invece tu cosa avresti fatto? Tu con chi stai? Brigate Rosse. Le Brigate Rosse hanno telefonato alle 10:10. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.